Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnino. Agosto, trasmissione mia non ti conosco. E invece siamo qui a tenervi compagnia con le notizie più o meno edificanti che raccogliamo dalla galassia animalista per far comprendere che gli altri animali fanno parte del nostro mondo, anche se facciamo finta di non vedere e guardiamo da un'altra parte. Agosto, animale mio, non ti conosco. Se ci decidessimo a guardarlo senza gli occhiali dell'antropocentrismo che ci affligge, decideremmo finalmente di superare eventi come il Palio di Siena, che si tiene il 16 agosto, o come la Sagra degli Osei di Sacile, in provincia di Pordenone, che è alla sua 743esima edizione, che si terrà domenica 21 agosto 2016. Sul Palio di Siena vi proporremo un commento del nostro Lorenzo Guadagnucci. Invece, per quanto riguarda la Sagra degli Osei, abbiamo scelto il punto di vista degli attivisti AFVG, ovvero animalisti del Friuli Venezia Giulia. Persone che da anni studiano, approfondiscono, conoscono, criticano e denunciano in modo avveduto e circostanziato la Sagra degli Osei. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Un gruppo di poveri cavalli sarà costretto anche quest'anno a correre sfrenatamente, a rischio della vita, nel caldo soffocante in mezzo a migliaia di persone urlanti, per ripetere uno stanco e triste rito chiamato Palio di Siena. È una di quelle tradizioni che si giocano sulla pelle di animali innocenti e che ha trovato nuova vita da qualche anno nel mondo dello show business. Il palio è diventato un rito degno di diretta televisiva nelle reti pubbliche, con il pubblico da casa che è chiamato a fingere di poter operare una distinzione fra la contrada dell'oca e quella del liocorno, a gioire, mettiamo, se vince la tortuca, come se fosse percepibile una distinzione rispetto alla torre o alla giraffa. Questo spettacolo televisivo è un classico caso di creazione dall'alto dell'evento. Per i non senesi, ignari del senso e della localizzazione delle singole contrade, lo spettacolo consiste alla fine nell'attesa che accada qualcosa, ossia la caduta di un fantino o magari di un cavallo, e poi nel clima di eccitazione che pervade la piazza di Siena, grazie anche a telecronache compiacenti di grande eccitazione. Nei mesi scorsi, però, il palio, come altre volte in passato, è entrato anche nella cronaca nera cittadina e nazionale, stavolta per un'inchiesta della magistratura che ha ipotizzato la falsificazione dei registri al fine di far ammettere al palio cavalli considerati ufficialmente da corsa e anche per l'importazione e l'uso di anabolizzanti veterinari da somministrare evidentemente ai cavalli per forzarne le prestazioni. Uno degli animali inizialmente sottoposti a sequestro probatorio è morto durante l'inchiesta e c'è il legittimo sospetto che vi sia un legame con l'uso di farmaci proibiti. Fra gli indagati, va da sé, ci sono fantini e veterinari. Ecco, questo è il palio nella sua cruda realtà. Un business sotto inchiesta giudiziaria, uno show somministrato a un pubblico passivo e per lo più ignaro, una tradizione triste che, nonostante tutto, celebra il campanilismo sulla pelle di cavalli terrorizzati. Anche quest'anno, il 16 agosto, ci sarà una contestazione. Piccolo o grande che sia, sarà un promemoria per chi ancora pensa che il Palio di Siena sia una nobile, innocente tradizione. La Sagra degli Osei è una fiera ornitologica, una tragica festa nella quale si osservano dei prigionieri in gabbia che si lamentano. Ma la cosa grottesca è che questo loro lamento viene percepito come un melodioso canto e migliaia di persone si affollano davanti alle gabbie per ascoltarlo. È una cosa umiliante, non tanto per gli uccelli che non hanno alcuna scelta, quanto per noi umani. Il servizio è a cura dell'Associazione di Volontariato Animalisti del Friuli Venezia Giulia. Sono Daniela, rappresento Animalisti Friuli Venezia Giulia, che nasce a Pordenone alcuni anni fa come gruppo spontaneo di attivisti per i diritti animali e che dal 2012 è associazione di volontariato senza fini di lucro. E l'idea alla base delle nostre iniziative è che gli animali siano soggetti di diritto, indistintamente dalla specie a cui appartengono, e che non debbano essere allevati, cacciati, pescati, macellati, mangiati, imprigionati e sfruttati per esperimenti e spettacoli. A luglio del 2011 nasce nosagrosei.org, che è un sito di controinformazione, il primo sito di controinformazione dedicato alle fiere ornitologico-venatorie. Era un argomento di cui si parlava poco, per cui l'urgenza per noi era quella di portare alla luce, attraverso documentazioni raccolte negli anni e testimonianze, quella che è la realtà delle fiere degli uccelli, quella che è la realtà della non vita, noi la chiamiamo la non vita, dei richiami vivi. Denunciare il sodalizio fra il mondo venatorio ed eventi per famiglie apparentemente festosi, di cui la Sagra dei Iosei di Sacile è l'esempio più tristemente celebre. Con gli anni poi questo sito si è arricchito di una serie di contributi e di materiale inedito ed è diventato un po' un punto di riferimento per quanti desiderano approfondire la questione dello sfruttamento animale in queste fiere che sono poi così capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale. E questo percorso è il percorso che ci ha portati quest'anno a pubblicare il libro Volare, non Sagrausei, un libro che è animato proprio dall'esigenza di spiegare le ragioni che ci portano a contestare la Sagra degli Iosei di Sacile, che è la più importante, ricordiamolo, e antica manifestazione avicola europea, e con essa però anche tutte le fiere ornitologico-venatorie. A quanti vedessero in queste manifestazioni né più né meno che una simpatica occasione per una gita fuori porta, abbiamo proprio voluto offrire con Volare alcuni spunti di riflessione. Questa fiera, in particolare quella di Sacile, dicevo la più antica, sono 743 anni quest'anno, ma anche tutte quelle del suo genere sono presentate di solito da chi le patrocina con termini accattivanti: tradizione, natura, cultura, genuinità. In realtà c'è poco di esaltante, anzi nulla di appagante, c'è soltanto di appagante per chi organizza queste manifestazioni un giro d'affari enorme, per chi alleva e vende gli animali, per chi costruisce le gabbie per i cacciatori. Ecco, è l'unica cosa veramente appagante per loro, ma alla fine, per quanti giri di parole si possono usare, stiamo parlando di gabbie. Stiamo parlando di gabbie dalle quali gli animali, questi individui prigionieri, osservano la libertà che gli è stata rubata. Tante sono le voci che negli anni si sono sollevate accanto a quelle degli animali schiavi esposti e venduti in queste manifestazioni. Lo hanno fatto per il sito Nosagrosei e oggi per il libro, perché un capitolo del libro è dedicato proprio ai contributi degli autori, etologi, zoantropologi, storici, filosofi, tanti autori che hanno contribuito apportando un tassello prezioso in direzione di una visione d'insieme del vero volto di queste manifestazioni. Il libro Volare è distribuito a Pordenone provincia, ma è anche ordinabile via mail scrivendo a info@nosagrosei.org. Invitiamo chi ci ascolta ad aiutarci a diffondere la consapevolezza sulle fiere che sfruttano animali. E lo si può fare da oggi anche sostenendoci in questo lavoro di documentazione, che è un lavoro di anni, leggendo e facendo conoscere questo libro. La mistificazione della realtà non è altro che una nuova gabbia da cui si continua ad osservare la libertà rubata. L'informazione per noi è lo strumento con cui contrastiamo la mistificazione. Il dissenso è il nostro fermo no alla Sagra degli Osei di Sacile e soprattutto a tutte le fiere ornitologico-venatorie e ad ogni forma di sopraffazione e mercificazione delle vite. Per informazioni e approfondimenti consigliamo di visitare il blog nosagraosei.org. Dopo il libro Volare, che spiega in modo ben documentato perché diciamo no alle fiere ornitologiche, passiamo a un altro testo che affronta il tema del rispetto e della salvaguardia degli animali. È un testo che nasce in ambienti che solo Giuseppe conosce e frequenta, quindi deleghiamo lui a parlarcene. Accenno solo il fatto che il testo è stato scritto da un monaco buddista e aggiungo che sentire un monaco invocare la rivoluzione rinfranca il mio spirito. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Sei un animale è un libro di Mathieu Ricard, che negli anni 70 è stato un promettente genetista francese e nel 1972 diventa monaco buddista e si trasferisce in Nepal. Fotografo e traduttore francese del Dalai Lama è una delle voci più influenti del buddismo tibetano. Nei suoi libri ha sempre trattato della sofferenza e del rispetto verso gli animali e ora apertamente affronta questo argomento con Sei un animale, perché abbiamo bisogno di una rivoluzione animalista. Rimarrà deluso chi si aspetta un libro con citazioni, meditazioni buddiste e concetti sul trascendente. Questo è un libro di denuncia sulla crudeltà e la scarsa compassione che l'uomo ha verso gli altri esseri senzienti, è un grido contro la sofferenza che infliggiamo agli animali e sulla distruzione del pianeta. Inoltre è un testo che invita rispetto. Mancare di rispetto per orgoglio significa supporre che la nostra superiorità in determinati ambiti ci attribuisca automaticamente un diritto di vita e di morte sugli animali. Mancare di rispetto per egoismo vuol dire utilizzare gli animali come se fossero semplici strumenti destinati a soddisfare i nostri desideri o promuovere i nostri interessi finanziari. Infine, mancare di rispetto per ideologia significa giustificare la nostra strumentalizzazione degli animali sulla base di dogmi religiosi, teorie filosofiche o tradizioni culturali. Il nostro atteggiamento nei confronti degli animali rimette in causa e indebolisce la struttura della nostra etica, influenzando allo stesso tempo il modo in cui ci comportiamo reciprocamente. L'etica esige che riconosciamo agli animali un valore intrinseco, che nutriamo considerazione nei loro confronti e che teniamo conto delle loro più legittime aspirazioni. Se escludiamo l'insieme degli esseri non umani dal nostro sistema etico, la sua struttura mostra crepe, si fa traballare. Mathieu Ricard, con dovizia scientifica e un nutrito apparato di ricerche e studi, critica e smonta il sistema carnista. Il cuore del libro comunque è buddista. Tutti aspiriamo a ricercare la felicità e fuggire dal dolore. Inoltre sono espressi in modo chiaro e toccante concetti di compassione e interdipendenza. Un numero crescente di persone non si accontenta più di un'etica limitata ai comportamenti dell'uomo verso i suoi simili e chiede che la benevolenza sia rivolta a tutti gli esseri, non come un'aggiunta facoltativa, ma in quanto componente essenziale dell'etica stessa. Spetta a noi continuare a promuovere l'avvento di una giustizia e di una compassione imparziali nei confronti dell'insieme degli esseri senzienti. La bontà non è un obbligo, è la più nobile espressione della natura umana. Mathieu Ricard, Sei un animale, traduzione di Sergio Rao, edizione Sperling e Kapfer, 384 pagine, disponibile in versione cartacea e in ebook. Da Siena all'Australia il passo non è breve, ma per questa notizia voliamo verso le coste del New South Wales, perché il 6 agosto è stato annunciato che una balena molto rara, detta balena dal becco, lunga quasi 4 metri, è stata sottoposta ad eutanasia sulla costa australiana, dove era spiaggiata e dove era stata trovata agonizzante da alcuni surfisti. La decisione è stata presa dal gruppo di veterinari che seguiva l'animale e che ne ha constatato l'estrema debolezza, giudicando controproducenti i tentativi di riportarla al largo. Gli zifidi sono una famiglia di cetacei che comprende almeno una ventina di specie, delle quali molte sono sconosciute. Sono abitatori delle profondità oceaniche e si nutrono delle sostanze nutritive presenti nei pressi del fondo marino. Hanno incredibili abilità natatorie. Come sappiamo, le balene per respirare devono emergere dall'acqua. Eppure pensate, questi animali si possono immergere fino al tempo record di 85 minuti in apnea. Arrivano inoltre a grandi profondità. Il massimo registrato è di 1899 metri, ma probabilmente possono arrivare molto più a fondo. Con tutto il dolore del mondo, con tutta la difficoltà che implica prendere una decisione simile, cioè quella di praticare l'eutanasia, in casi come questo, l'eutanasia sembra un gesto di compassione, un gesto veramente umano. Poi, chissà, noi non siamo balene e non possiamo sapere cosa desiderano, ma ci limitiamo a fare del nostro meglio. Certo, nell'era delle grandi opere e dei satelliti artificiali, forse potremmo dotarci di qualche sistema sofisticato ed efficace per proteggere questi animali. Ma si sa, quando si parla di animali, specialmente quelli non pet, siamo ancora al Paleozoico. La questione dell'alimentazione vegan torna ad alimentare le cronache. Stavolta c'è una parlamentare del centrodestra, Elvira Savino, che ha presentato una proposta di legge per introdurre nel codice penale un nuovo reato, ossia la imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita a un minore di anni 16. Questa è la formulazione ufficiale, ma nel mirino c'è proprio l'alimentazione vegana, come spiega l'onorevole Savino nel testo che accompagna la proposta di legge. A suo dire, un'alimentazione a base vegetale sarebbe, aperte virgolette, carente di zinco, ferro tipo M contenuto in carne e pesce, vitamina D, vitamina B12 e omega 3, e quindi pericolosa per la salute di bambini e ragazzi. L'onorevole Savino ha dunque cavalcato l'onda di certe notizie allarmistiche in materia e si è guadagnato così il suo quarto d'ora di micro celebrità. Ma le sue affermazioni, come è noto, cozzano con quanto affermano ormai da anni le maggiori organizzazioni di nutrizionisti, che riconoscono come l'alimentazione cruelty free si adatta a tutte le fasi della vita, purché ovviamente praticata con equilibrio. Lo stesso Ministero della Salute italiano, del resto, ha aperto all'alimentazione vegetariana e vegana nelle mense pubbliche, ammettendo questa opzione nelle linee guida di indirizzo nazionale per la ristorazione nelle mense scolastiche e nei successivi documenti di attuazione. La resistenza però è ancora notevole e sono numerosi i casi di conflitto fra famiglie che chiedono un'alimentazione vegetariana e vegana per i propri figli e le amministrazioni locali che ritengono di non poterla o doverla concedere. A dirimere alcuni di questi casi è intervenuta di recente la Regione Emilia-Romagna, che per quanto la riguarda ha indirizzato una nota a Comune e ASL per indicare la necessità di rispettare le direttive nazionali e quindi di accogliere le richieste di familiari che vogliano per i propri figli un'alimentazione vegetariana o vegana alle mense scolastiche. Paola Segurini, che è la responsabile per la LAV dell'area Scelta Vegan, ha commentato queste notizie auspicando un'effettiva attenzione delle strutture pubbliche per la salute dei bambini. visto che l'Italia è ai primi posti nella poco lodevole classifica stilata considerando la quantità di bambini sovrappeso. Siamo oltre il 20%, con un allarmante 9,8% di bambini obesi. E probabilmente nessuno di questi è vegano. Metti la maglia più stretta che hai, metti blu jeans più fighi che hai, metti il sorriso più fresco e poi buone vacanze dai, vieni con noi. Prendi la strada che porta più a sud, se c'è una coda tu buttati giù, alza la radio più che si può, buone vacanze con te io verrò. La dieta vegan è il futuro, noi stiamo viaggiando più veloci della luce verso Vega, la stella più brillante della costellazione della Lira, una stella gentile come le ricette che vi propone il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Sentiamo cosa si è inventato Gabs questa settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ok, fa caldo e non avete voglia di accendere forno e fornelli. Non dico cocomero, altrimenti si sente troppo che sono toscano. Sì, ma non una ricetta dolce, qualcosa di sfizioso, via. Vabbè, cosa non si farebbe per mantenere lo spazio in questa trasmissione? La ricetta di oggi è quella degli spiedini di anguria con crema acida. Le patatine sono fritte, il vino è caldo, col caldo che fa. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di yogurt di soia al naturale, mezzo cucchiaino di sale, il succo di mezzo limone, mezza anguria, 16 olive rosatella o taggiasche denocciolate, dei cuori di sedano, 8 pomodorini ciliegia, qualche foglia di basilico, una bottiglia di prosecco e qualche fogliolina di menta. Ed io capisco che estate perché in spiaggia tutti i parenti mi chiedono quanti anni ho. Avvantaggiatevi con almeno un giorno di anticipo e preparate un formaggio vegan dal gusto acido e cremoso. Semplicemente mescolate lo yogurt di soia con il succo di limone ed il sale e lasciatelo scolare dal siero in una garza o panno non trattato per almeno una giornata. Più lo lascerete scolare, più la crema sarà compatta. Via via che si addensa potrete anche stringere il panno per facilitare l'uscita del liquido. L'importante è che il tutto rimanga sospeso, in modo che il siero non venga a contatto con il panno, rendendo inutile il vostro lavoro. Una volta asciugato, realizzate delle palline che potrete aromatizzare con foglie di basilico spezzettate. Con l'apposito attrezzo, ricavate 3 palline di anguria per ogni spiedino che volete preparare. Conservate gli scarti della polpa nel bicchiere di un mixer. Tagliate i cuori di sedano a cubetti e lavate i pomodorini ciliegia. Confezionate gli spiedini alternando una pallina di anguria con una di formaggio di yogurt, un'oliva, un cubetto di sedano e un pomodorino. Sistemate su un piatto e passate un filo di olio extravergine di oliva. Adesso frullate la polpa di anguria rimasta e passatela al setaccio per togliere eventuali semi. Tappate il prosecco e unite al succo. Accompagnate i vostri spiedini con un calice di bellini all'anguria decorato con foglioline di menta. È mezzogiorno di un giorno popolare nel ristorante. Spaghetto scarso e scivoloso, tutti speriamo in un secondo muscoloso. E in questa Pordenone, Siena, l'Australia, l'Emilia Romagna. Possibile che tra tanti luoghi del mondo non arrivino mai notizie della mia terra d'origine, cioè la Cinacria? Accontentiamo subito Giuseppe e spostiamoci in Sicilia per darvi conto di una mezza vittoria, quella conseguita dagli animalisti che si sono mobilitati per salvare i 3 tori di Pantelleria. I 3 poderosi bovini, cornuti, ma non in quel senso, vivevano liberi sull'isola di Pantelleria allo stato brado, conducendo una vita tranquilla immersi nella natura. A causa dei recenti terribili incendi, molti dei quali peraltro dolosi, questi 3 animali si erano spinti in prossimità delle abitazioni e un cittadino ha denunciato un contatto ravvicinato pericoloso. Il sindaco Salvatore Gabriele non ha fatto discorsi e il 31 luglio ha firmato un'ordinanza di abbattimento, temendo forse per la stagione turistica, contando magari sul fatto che il movimento animalista in questo periodo è un po' meno reattivo e coeso a causa della dispersione vacanziera. Purtroppo uno dei tre tori è stato abbattuto immediatamente, forse dallo stesso cittadino che si era dichiarato importunato dall'animale. Ma gli altri due tori sembra che ce l'abbiano fatta. Il quotidiano Repubblica afferma che il giorno 9 agosto il sindaco ha firmato una nuova ordinanza che dichiara che i due tori superstiti verranno lasciati vivere, spostandoli in una valle poco abitata dove ci sono persone disposte a prendersene cura. Decisivo il mail bombing, che è stato attivato attraverso la petizione su change.org, che secondo l'autorevole fonte del Syracuse Times sembra aver attivato 12.500 mail di protesta al sindaco. Chapeau per il mail bombing, ma chapeau anche per il Syracuse Times, del quale ignoravamo l'esistenza. Camilla, hai caldo? No, non più di tanto. Poi sai che io nella calura ci sguazzo. Allora la patria musicale di oggi non fa per te. Ma che musica, che musica, maestro! Questa bella sinfonia, il mondo canterà. Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo. Oggi con la musica voliamo su un'isola nordica, in Islanda, proponendo un brano di un artista vegetariano che, tra i miei preferiti, riesce a creare composizioni tra il classico e l'onirico. Parliamo di Ólafur Arnalds. Sicuramente la pronuncia in islandese sarà altra cosa. È un artista corteggiato anche dal cinema, tanto che ha composto diverse colonne sonore e un suo brano è finito anche nella colonna sonora dell'ultimo film di Moretti. Prossimamente uscirà un album dedicato all'Islanda che già si può ascoltare in rete. Ma noi lo sentiremo con una cover di un brano che coinvolge te, cara Camilla, e Beyoncé. È un brano delle Destiny Childs, dell'epoca in cui tu facevi la cubista. Si chiama Say My Name, che qui acquista un fascino tutto particolare fuori dal tempo. Come hai saputo di questo mio passato così discutibile? Sui social si sa tutto della Camilla. Siamo in chiusura e come sempre ricordiamo le voci che hanno realizzato la puntata e che sono quelle di... Daniela degli Animalisti del Friuli Venezia Giulia, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco e la super cubista Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.